Il giardino di Elisabeth, di Elisabeth von Arnim, Fazzi Editore. 7 maggio. Adoro il mio giardino. Ed è proprio in giardino, nella magnificenza del tardo pomeriggio, che sto scrivendo queste pagine, con le zanzare che non mi lasciano in pace e la tentazione di alzare gli occhi per guardare il tripudio delle giovani foglioline lavate dal fresco piovasco di mezz'ora fa. Mi fanno compagnia due gufi e la loro lunga conversazione mi delizia quanto il canto degli usignoli. Il signor gufo dice: "Ah ah". La consorte dall'albero accanto gli risponde: "Ah ah ah". E con armoniosa approvazione completa il commento del suo signore, come si addice a una ben educata gufessa tedesca. Ripetono il loro discorso talmente tante volte e con tale enfasi che sospetto si tratti di cattiveria nei confronti della mia persona, ma io non mi lascio intimidire dal sarcasmo gufesco e rimango qui. Più che un giardino, direi che questa è una selva. La casa è rimasta disabitata per 25 anni e il giardino ne ha sofferto. Incredibile che a un posto così grazioso e carico di storia si sia preferito un orrendo appartamento in città. E le persone che avrebbero potuto viverci fanno sicuramente parte della vasta schiera di ciechi e sordi di cui il mondo è pieno, gente anche priva di naso, benché non sia carino dirlo. Eppure, in primavera per me la felicità nasce in gran parte dal profumo della terra bagnata e delle foglioline nuove. Io sono sempre felice, all'aria aperta ovviamente, poiché in casa mi opprimono la servitù e tutti quei mobili, ma in modo diverso a seconda della stagione. La felicità primaverile non ha niente in comune con quella estiva autunnale, di certo non è più intensa. Lo scorso inverno, per esempio, ero talmente colma di gioia che mi sono messa a danzare nel giardino ricoperto di brina, nonostante sia una signora di una certa età con figli. Comunque mi sono riparata dietro un cespuglio per rispetto della decenza. Intorno a me vedo grandi ciliegie a grappolo, imponenti prunus padus, con i rami che scendono ad accarezzare l'erba, inghirlandati di fiori bianchi e tenere foglie, come se il giardino intero fosse una festa di nozze. Non ho mai visto una tale profusione di fiori, e riempiono tutto lo spazio. C'è un prunus enorme persino oltre il ruscello che delimita il giardino a est. Se ne sta in mezzo al campo di grano. Figura maestosa che si staglia contro il freddo azzurro del cielo primaverile. Il mio giardino è circondato da campi di grano e prati, oltre i quali si estendono brughiere sabbiose e pinete. Dove i pini diradano ricomincia la nuda brughiera, ma in quelle distese bellissime di alti fusti rosati, a cui fanno corona chiomi di un tenue grigio verde, su un tappeto di mirtilli verde brillante, regna un silenzio assoluto. Anche le brughiere spoglie possiedono una bellezza che invita lo sguardo ad andare oltre, verso una sorta di eternità. Attraversarle con il viso rivolto al sole che tramonta è come trovarsi a cospetto di Dio. In mezzo alla pianura c'è l'oasi verdeggiante di Prunus, in cui trascorro giornate felici. In mezzo all'oasi c'è l'edificio di pietra grigia scandito da innumerevoli frontoni, dove trascorro controvoglia le mie notti. È una casa antica che negli anni è stata ampliata a più riprese. Prima della guerra dei Trent'anni era un monastero e la cappella, dal soffitto avvolto dal pavimento di mattoni consumati da generazioni di contadini devoti che vi si sono inginocchiati, oggi è adibita a salone. Gustavo Adolfo di Svezia e i suoi soldati sono passati di qui più di una volta, come testimoniato dagli archivi tuttora conservati. Ci troviamo infatti sulla via maestra che un tempo collegava la Svezia allo sventurato Brandeburgo. Il leone del nord era certamente persona degna di stima e agiva nel pieno rispetto delle sue convinzioni, ma sconvolse un po' quelle povere monache, anch'esse con le loro convinzioni personali, costringendole a rifarsi una vita e a cercare nella vasta e desolata pianura la pace e il silenzio perduti. Da quasi tutte le finestre della casa lo sguardo può correre sulla pianura, senza neppure una collinetta che lo ostacoli, fino alla striscia blu di foresta all'orizzonte, mentre a occidente l'ondeggiante distesa verde termina con una linea netta contro il tramonto. Prediligo le finestre che guardano a occidente e ho deciso di collocare la mia camera da letto su questo lato della casa per non perdere un solo istante dello spettacolo, neppure quando è il momento di spazzolare i capelli. Infatti ho insegnato alla mia giovane cameriera che deve assolvere il suo compito in totale silenzio mentre me ne sto in poltrona davanti alla finestra aperta a godermi quei momenti dolci e solenni. L'abitudine che ho di passare quasi tutta la giornata in giardino è causa di grande afflizione per la ragazza. Da quando lavora per me tutte le sue idee su come dovrebbe comportarsi una rispettabile signora tedesca si sono miseramente scombinate. Ora che si è sparsa la voce, che passo le giornate fuori casa con un libro in mano, tutti sono convinti che io sia, per dirlo in modo educato, eccessivamente eccentrica e non c'è anima viva che mi abbia visto ancora cucire o spignattare. Perché mai dovrei cucinare se ho qualcuno che lo fa per me? Quanto al cucito, le domestiche sono molto più veloci di me e più abili nel far l'orlo alle lenzuola, per non parlare dei lavori d'ago e del ricamo. Per me sono una trovata del maligno per impedire ai babbei di applicarsi alla ricerca della saggezza. Solo dopo 5 anni di matrimonio ci siamo resi conto che dopo tutto in questo luogo potevamo venire a viverci. 5 anni passati in un appartamento in città, un tempo infinito di totale infelicità e perfetta salute. Il che smentisce lo sgradevole sospetto di cui sono stata preda più volte, che la mia felicità qui dipenda più dalla buona digestione che non dal giardino. E pensare che mentre buttavamo via la nostra vita in città, in questo luogo meraviglioso fioriva il dente di leone fin quasi sulla soglia di casa e i sentieri erano invasi e cancellati dall'erba. D'inverno, una gran solitudine, nient'altro che il vento del nord ad accorgersi della sua esistenza. E a maggio, in ciascuno di quei 5 incantevoli mesi di maggio, mai nessuno che contemplasse i prunus o le moltitudini di ancor più meravigliosi lillà. Tutto che splendeva ondeggiava al vento. La vite vergine ogni anno più folle, finché a ottobre persino il tetto si copriva delle sue tracce vermiglie. I gufi e gli scoiattoli e gli uccellini che regnavano beati. Non un essere vivente metteva piede nella casa tranne le serpi, che in quegli anni silenti hanno preso l'abitudine di arrampicarsi su per la parete esposta a meridione ed entrare dalle finestre lasciate aperte dall'anziana governante. Era tutto qui: pace, felicità e una vita sensata, eppure nemmeno una volta in quegli anni ho pensato di venire a viverci. Se ci ripenso mi stupisco e non so spiegare il perché di tanta lentezza nel capire che proprio in questo angolo remoto si trovava il mio paradiso. L'ipotesi di venire qui in estate era talmente lontana dai miei pensieri che ogni anno mi sottoponevo per settimana agli orrori della villeggiatura al mare, finché all'inizio della scorsa primavera qualcosa è cambiato. Ero venuta in paese per l'inaugurazione della scuola. Dopo la cerimonia mi sono trovata a vagare per il giardino spoglio e desolato. E forse è stato l'odore della terra bagnata e delle foglie marce a riportarmi di colpo all'infanzia e ai giorni felici trascorsi in un giardino. Dimenticherò mai quel giorno. È stato l'inizio della mia vita vera, l'ingresso nel mondo adulto, nel mio regno. Erano i primi di marzo, cieli grigi e calmi, terra scura e calma, rami spogli, tristezza, solitudine in quel luogo umido e silenzioso dove tuttavia provavo un rapimento estatico per i primi aliti di primavera, proprio come quando ero bambina. Improvvisamente, quei 5 anni mi sono scivolati dalle spalle come un mantello e il mondo si è riempito di speranza. In quell'istante mi sono consacrata alla natura e da allora sono sempre stata felice. La mia dolce metà è condiscendente e deve inoltre aver vagamente considerato che dopo tutto qualcuno doveva pur prendersi cura della dimora, perciò ha consentito a viverci almeno per un certo periodo. A quel punto sono seguite 6 settimane di totale beatitudine. A cavallo, tra aprile e giugno, in cui sono rimasta nella proprietà da sola, ufficialmente per sovrintendere lavori di tinteggiatura e tappezzeria, mentre in realtà in casa c'entravo soltanto dopo che gli operai se n'erano andati. Com'ero felice! Per ricordare i momenti altrettanto perfetti, devo riandare ai tempi della mia infanzia, quando ero troppo piccola per seguire le lezioni e mi mandavano sul prato fitto di dente di leone e margherite con una fetta di pane, burro e zucchero. Lo spuntino delle 11. Il pane con il burro e lo zucchero ha perso il suo fascino, ma i denti di leone, le margherite, li amo adesso più intensamente di allora e non potrei mai sopportare di vederli falciati se non fossi certa che in un paio di giorni le loro faccine rispunteranno briose come sempre. In quelle 6 settimane vivevo in un mondo di denti di leone e di delizie. Quei capolini gialli ricoprivano i tre prati. Un tempo erano prati verdi, ma è ormai tanto che si sono inselvatichiti e adesso ospitano una gran varietà di graziose erbe spontanee, insieme ai ranuncoli blu, agli anemoni bianchi, alle viole e alle celidonie, come un tappeto fiorito sotto le querce e i faggi ancora senza foglie. Le celidonie soprattutto mi davano gioia con la loro allegra luminosità, linde perfette, come se i decoratori avessero passato una mano di colore anche su di loro. Poi, sfioriti gli anemoni, sbocciarono le pervinche più rade e i sigilli di Salomone, finché non fiorirono i Prunus padus, tutti insieme. Prima che potessi abituarmi alla felicità che mi davano i loro fiori contro il cielo, arrivarono i lillà, miriadi di lillà, ammassi densi sull'erba, ad affollarsi insieme ad alberi e arbusti lungo i sentieri, una muraglia ininterrotta, a mezzo miglio dal lato ovest della casa che continuava a perdita d'occhio, splendente in tutta la sua gloria sullo sfondo delle abetaie. Quando giunse quel momento, quando fiorirono anche le acacie e quattro grandi cespugli di peonie di un tenue rosa argenteo, sbocciarono sotto le finestre volte a sud, sentii un'assoluta, beata felicità, una gratitudine, una riconoscenza tali che non trovo le parole per descrivere queste sensazioni. Le giornate sembravano fondersi in un sogno di pace rosa e viola. Poiché nella casa erano presenti soltanto la vecchia governante e la sua sguattera, con la scusa di non essere loro di intralcio all'ora dei pasti, mi abbandonai a ciò che la mia metà definisce fantaisie déréglée quanto all'alimentazione. Chiesi pietanze talmente frugali che potevano stare su un vassoio ed essere servite all'ombra dei lillà. Vivevo di insalata, pane e tè. A volte a pranzo compariva, per salvarmi dall'inedia, un minuscolo piccione dovuto alla sollecitudine dell'anziana domestica. Chi altri, se non una donna, avrebbe sopportato per 6 settimane una dieta di sola insalata, sia pure condita dalla presenza e dal profumo dei lillà più maestosi che siano mai esistiti? Io l'ho fatto e ogni giorno diventavo più radiosa, ma devo dire che da allora l'insalata non mi piace più. Quante volte, oppressa dalla necessità quotidiana di presenziare a 3 pasti formali, 2 dei quali gestiti da personale di servizio ritenuto indispensabile al mantenimento della rispettabilità della famiglia, pasti dominati da tocchi di carne, ho ripensato ai miei 40 giorni a pane e insalata e alla beatitudine di starmene da sola come in quel periodo. E la sera, dopo che gli operai se n'erano andati lasciando la casa deserta e vibrante di echi e la governante aveva infine disteso le membra doloranti sotto le coperte, dopo avermi preparato la cameretta nell'ala opposta della casa, contro voglia mi separavo dai miei amici gufi e rane. Con il cuore in gola chiudevo a chiave la porta del giardino e attraversavo l'infilata delle stanze dell'ala sud, rimbombanti di echi, dense di ombre, ingombre di scale e spettrali secchi di vernice lasciati in giro dagli imbianchini, canticchiando un motivetto per farmi coraggio. Attraversavo lentamente il salone pavimentato di mattoni, salivo le scale scricchiolanti e percorrevo il lungo corridoio imbiancato. Infine, con uno slancio dettato dal panico, mi infilavo in camera. E dopo aver chiuso a doppia mandata, tiravo pure il catenaccio. Siccome in casa non c'erano campanelli, mi portavo a letto una di quelle grandi campanelle che la servitù usa per annunciare il pranzo. Se qualcosa mi avesse spaventato durante la notte, almeno avrei potuto fare rumore. Certo, non so cosa sarebbe servito, visto che nessuno poteva sentire. La cameriera dormiva in una stanzetta attigua alla mia, ed eravamo le uniche forme di vita nell'immensa e deserta ala ovest della casa. Era evidente che lei non credeva ai fantasmi, poiché appena sotto le coperte si addormentava come un sasso. La sentivo bene. Neppure io ci credo. Mais je l'ai redoute, come diceva una signora francese, che a giudicare dai suoi libri doveva possedere un carattere deciso. La campanella mi era di grande consolazione. Non l'ho mai dovuta usare, ma mi dava conforto vederla sulla sedia accanto al letto. Le mie nottate non trascorrevano serene. Tutto era strano, c'erano bizzarri cigolii e altri rumori che mi tenevano sveglia per ore. Capitava che lo scricchiolio di un'asse del pavimento mi svegliasse da un sonno leggero. A quel punto mi toccava ascoltare il russare incurante della ragazza nella camera accanto. Il mattino dopo, naturalmente, avevo un coraggio da leoni e i sudori freddi della notte precedente mi facevano sorridere. Oggi, Persino quelle notti mi sembravano meravigliose e mi vedo come uno di quei ragazzi di cui si narra che udissero una voce in ogni alito di vento e da ciò cogliessero una gioia mista a timore. Quelle nottate da brividi le rivivrei tutte da capo pur di assaporare la purezza della casa sgombra di servitù e orpelli. Quanto erano carine e allegre le camere da letto con solo la carta da parati stesa di fresco. A volte entravo nelle stanze appena terminate e mi perdevo in infiniti castelli in aria sulla loro destinazione e la loro storia. Chissà se le suore che ci avevano vissuto avrebbero riconosciuto le loro cellette scialbate a calce, ora che erano rivestite di allegra carta da parati a fiori imbiancate linde. Quale sarebbe stata la loro meraviglia nel vedere la cella 14 trasformata in sala da bagno, con una vasca talmente grande da garantire la purezza dell'anima oltre all'igiene del corpo? L'avrebbero ritenuta di sicuro un tranello del tentatore. Per quanto mi riguarda, la sporcizia sotto le unghie cominciò a turbarmi a 15 anni, il giorno in cui persi il candore originario della mia anima innamorandomi dell'organista della parrocchia, o piuttosto del suo rocchetto bianco, del naso aquilino e dei baffi rosso fuoco, che avevo intravisto e che per almeno 6 mesi amai follemente. Finché un giorno, passeggiando con la mia governante, lo incontrai per strada e scoprì che fuori dalla chiesa indossava la bombetta, la redingote e la camicia con il colletto abbassato. Dopodiché non lo amai più. La prima parte di quel periodo di beatitudine fu perfetta, poiché non pensavo ad altro che alla pace e alla bellezza intorno a me. Poi apparve improvvisamente colui che detiene il diritto di manifestarsi quando e come più gli piace, e mi rimproverò di non avergli mai scritto una lettera. Gli dissi che ero troppo felice per pensare di scrivere a qualcuno, e lui considerò il mio essere felice senza di lui una critica alla sua persona. Lo portai in giro per il giardino sui sentieri che avevo appena fatto tracciare. Gli mostrai lo splendore delle acacie e dei lillà. E lui osservò che era puro egoismo stare lì a divertirsi mentre il resto della famiglia era lontano. Per non parlare dei lillà, che necessitavano di una potatura drastica. Tornando indietro cercai di acquietarlo offrendogli la mia cena, ovvero l'insalata e il pane tostato che mi aspettavano sul primo gradino della piccola veranda. Ma nulla poteva placare l'uomo della collera, il quale annunciò che sarebbe tornato immediatamente dalla famiglia trascurata. Così fece. E nella parte restante di quel periodo dorato fui turbata da acuti sensi di colpa, cui vado molto soggetta, ogni volta che mi veniva da fare i salti di gioia. I miei piedi avrebbero voluto condurmi in giardino, invece andavo a controllare il lavoro degli imbianchini, correvo diligente da un capo all'altro dei corridoi e in un giorno solo impartii più critiche, suggerimenti e ordini di quanti ne avessi mai formulati fino ad allora. Mi misi a scrivere regolarmente lettere affettuose, ma non ce la facevo proprio a tormentarmi e a provare nostalgia. D'altra parte, che ci vuoi fare se hai la coscienza pulita, il fegato a posto e il sole che ti bacia in fronte? 10 maggio. L'anno scorso non sapevo nulla di giardinaggi e quest'anno non ne so molto di più, però almeno intuisco che cosa posso fare e un importante passo avanti l'ho compiuto. Sono passata dall'ipomea alle rose tea. Quando sono arrivata, qui era tutta una selva. Il giardino gira intorno alla casa, ma la parte principale si trova sul lato sud ed è così da sempre, evidentemente. Su quel lato la casa ha un solo piano e la vite vergine ne ricopre i muri. Dentro una serie infinita di stanze comunicanti, a metà della quale vi è una piccola veranda munita di una traballante gradinata di legno che la collega al giardino. Quella parte di giardino sembra l'unica di cui qualcuno si sia mai preso cura. È un semicerchio di prato bordato di ligustri, suddiviso in 11 aiuole di dimensioni diverse, racchiuse da siepi di bosso e disposte attorno a una meridiana assai antica e incrostata di muschio, cui tengo molto. Le aiuole erano quindi l'unico segno di un tentativo di giardinaggio, oltre a un croco che ogni primavera spuntava solitario nel prato. Non perché lo volesse, ma perché non poteva farne a meno. E le avevo seminate tutte a ipomea, dopo aver letto in un libro tedesco di giardinaggio che solo generose quantità di ipomea potevano trasformare il deserto più orrendo in un paradiso terrestre. In quel libro l'ipomea era caldamente raccomandata, molto più di qualsiasi altra pianta. E io, completamente all'oscuro della quantità di semi necessaria, ne comprai 4,5 kg. e li feci spargere non solo in tutte e 11 le aiuole, ma anche sotto quasi tutti gli alberi, mettendomi poi in ansiosissima attesa del paradiso promesso. Il paradiso non si manifestò e io imparai la mia prima lezione. Per fortuna in due grandi porzioni di terreno avevo seminato piselli odorosi che mi resero felice per tutta l'estate. C'erano anche dei girasoli e davanti alle finestre esposte a sud qualche altea mista a gigli bianchi. Ma i gigli, una volta trapiantati, scomparvero con grande mio disappunto. In fondo, come potevo sapere che i gigli si comportavano così? Le altee poi si rivelarono di un colore piuttosto brutto, perciò la mia prima estate fu abbellita soltanto dai piselli odorosi. In questo momento stiamo appena cominciando a rifiatare dopo la gran corsa fatta per preparare le aiuole, le bordure e i sentieri in tempo per l'estate. Gli 11 spicchi intorno alla meridiana sono fitti di rose, ma già mi accorgo degli errori che ho fatto in alcuni punti. Non disponendo di anima viva per condividere né questa né altre esperienze, posso soltanto imparare dai miei errori. Tutti e 11 avrebbero dovuto essere tappezzati di viole del pensiero, ma quando mi sono accorta che non avevo abbastanza, che non trovavo dove comprarle, ne ho piantate solo 6 aiuole. Per le altre sono ricorsa alle rese denane. In due ho messo delle rose Marie von Hotte, in altre due delle Visconset Folkestone, in due le Lorette Missimi, in una la Souvenir de la Malmaison, in una la Dame e la Devoniensis. In due la Purse in Yellow e la Bicolor e nell'aiuola grande dietro la meridiana tre diverse rose rosse. In tutto sono 72, la Duke of Teck, la Chestnut Scarlet e la Preux de Limbourg. Sono certa che questa aiuola è uno sbaglio, come del resto buona parte delle altre, ma so che devo comunque aspettare, vista la mia ignoranza in materia. Infine, nel prato accanto all'estremità del semicerchio, ho fatto ricavare due aiuole di forma allungata in cui ho seminato delle resede e messo a dimora delle Marie von Hotte da un lato e delle Jules Finger e The Bride dall'altro. In un angolino riparato sotto le finestre del soggiorno c'è un'aiuola di Madame Lambard, Madame de Vaudeville e Comtesse Risa du Parc. Mentre isolandosi nel giardino, a riparo di un gruppo di faggi e di lilà sul lato nord e su quello ovest, si trova un'altra grande aiuola di rose Rubens, Madame Joseph Schwarz, Heron, Edith Kifor, tutte rose nane. Nel giardino ne ho soltanto due ad alberello, delle Madame Georges Brouin, che sembrano manici di scopa. Non vedo l'ora che sboccino le rose Thea. Non ho mai atteso nulla con altrettanta impazienza. E ogni giorno faccio il mio solito giro per ammirare i progressi, le foglioline nuove, i deliziosi germogli rossi delle mie adorate. Le altee e i gigli in piena fioritura sono ancora sotto le finestre a sud, in una bordura stretta alla sommità di un pendio erboso, ai piedi del quale ho seminato due lunghe file di piselli odorosi che guardano le rose, in modo che queste possano contemplare creature quasi altrettanto soavi per tutta l'estate fino all'autunno, quando sarà il momento di fare posto ad altre rose Thea. Il sentiero che parte dall'emiciclo e attraversa il giardino è bordato di rose della Cina bianche e rosa, framiste a Persian Yellow. Mi rincresce non averci messo rose Thea perché ho dei dubbi circa l'effetto delle Persian Yellow tra le rose della Cina, così minute e delicate a confronto con il vigore delle prime, intenzionate a diventare grossi cespugli. Non c'è creatura vivente in quest'angolo di mondo che possa in minima parte capire con quanta trepidazione aspetto la fioritura delle mie rose. I libri di giardinaggio tedeschi, per esempio, relegano senza eccezioni le rose Thea nelle serre, ve le imprigionano a vita, privandole per sempre del respiro di Dio. Se mi sono gettata a capofitto laddove gli angeli teutonici temono di avventurarsi, se ho esposto le mie Thea ai rigori dell'inverno nordico, è stato certamente per la mia ignoranza. Eppure l'hanno affrontato al riparo di rami e foglie d'abete senza risentirne e oggi appaiono felici e determinate a vivere al meglio la loro stagione, come qualsiasi altra rosa europea. Ne sono sicura.